coisa. E economia força. Ciao ragazzi, ciao! Noi siamo DFD. I am Diego. Dovevo farmi la doccia ma puzzo da schifo. I am Frego. Cacca nello spazio. I am Dennis. Ma trovati un lavoro, cazzo! Musica, musica, musica! Information. E 60 l'informazione divertita. Oh ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Together. Radio Salona 102.200 Okay. Siamo ritornati. No, ma sbaglio, era molto molto molto carina questa cosa del grande, grande, ci facciamo i complimenti da soli, soprattutto perché siamo tornati dopo questa piccolissima, pausissima, estivissima. 4 mesi. Ma soprattutto, grazie, finalmente vi rivedo, cari amici e cari colleghi, qui davanti a me. Che sfiga! Che sfiga no, di dai, vedervi! Sono Diego, ti spiego. Ah, eccolo, Diego, ti spiego. E comincia subito a spiegarci le solite stronzate. Eccolo qua, il grande eccolo il nostro Diego Abafan, Diego. E mo ti spiego. Ciao ragazzi, bentornati a DFD Team. Questa è sempre 360 l'informazione divertita. Noi siamo sempre il mitici DFD Diego Frego Dennis. Siamo sempre su Radio Sandonà, la frequenza 102.200. Il numero di telefono non è cambiato, non importa, vi annovero di nuovo il numero di telefono, che è 0421 3316-5609-93-4, finale per il fax. E per ascoltarci on web radio è www.radiosandona.it. È sempre comunque è solito il nostro numero di telefono per gli SMS. Grazie Diego, grazie, è stato bellissimo il tuo intervento. Aspetta un attimo. Dunque, per tutte le belle fanciulle, mi raccomando, chiamatemi al 348-4162-771. Facebook di FD Team 360 in parole. Facebook! Per le mail di FD 360 chiocciola. Yahoo.it. Abbiamo un tenore, Ah, Pavarotto! Guarda che scoppi così. Ah, scusa. Che quest'anno c'è sta pure il Pavarotto. Sta pure il Pavarotto quest'anno. Comunque ragazzi, bentornati a tutti quanti i nostri amici del pubblico. Sì, siamo di nuovo qui, siamo di nuovo in onda, siamo di nuovo on air con tantissime nuove. Sempre più. Come si chiama il quello lì là, quello che canta Romina? Albano ogni volta che Bene. Dicevo, tante sta a cavalcalonda. Ma che sta a dire? Oh? Sta a cavalcà. Lascialo cavalcà. Stiamo in onda. Lascialo che cavalchi. Lascia che cavalchi l'onda. Dicevo, siamo tornati, siamo sempre noi, siamo sempre più idioti. Esatto, non avrebbe saputo dire di meglio. No. Parla per me. Esatto. Parliamo Diego, per me, idiota per due. Esatto. Grazie, un grazie vivissimo al nostro Frego che sta in regia. Esattamente. Grazie. Ma soprattutto io voglio ringraziare perché scusa, quest'anno non ho capito Diego che mi aveva fatto il cenno. Grazie. Adesso sono commosso. Non bagnare il mixer, un bacino. No, sono contentissimo perché abbiamo avuto una novità che l'avete ascoltata proprio circa 5 minutini fa. Esattamente. Abbiamo capito cosa ha detto, giustamente. Ma volevo dire in una maniera un po' più semplice. Esatto, quindi voi esatto. L'avete capita soprattutto. Esatto, sì. Un ringraziamento particolare a Martina che è stata che la creatrice a creare la nostra nuova sigla. Grazie Martina. Ecco, ha partecipato anche in piccolissima misura. Registrando, rubando un audio da internet invece di pagarlo. Esatto. Anche il nostro caro amico Ricky. Grazie Ricky. Esatto. Thank you very much. Goodbye. Allora, a Martina diciamo che aspettiamo la torta per in radio. Beh, un'altra cosa volevo dire. Io direi bando alle ciance e cominciamo il programma. Sì, esatto. Allora, ascoltiamoci subito quello che potrebbe essere nuovo, grandissimo pezzo per l'inverno 2010. Sembravi il Johnny Glamour. Sfedi Somos Mafia. Yeah. ma che c'hai, Diego? Che tieni freddo? Come tieni freddo? Sei più abituato all'estate. Del freddo. Perché hai freddo? Cos'è che hai freddo? Sarà il disco dell'inverno questo. Bella, allora spieghiamo la storia di questa bellissima gag, no? Allora Diego, mentre c'era mentre c'era il disco, no? Allora ci fa: ragazzi, adesso io faccio brrr, e poi voi mi chiedete cos'è, e poi lui deve dire il disco dell'inverno. Bravo, bravissimo, bravo. Si ripete ogni anno. Che succede? Allora ragazzi, parliamo di attualità e parliamo di appuntamenti futuri. Allora, le pecore gialle. Le pecore gialle perché? Perché a Pordenone ci sarà la festa del libro con gli autori. Ci sarà dal 15 al 19 settembre 2010. Mi raccomando, acquistate una macchina del tempo e andate a vederla. Mi raccomando, non mancate l'appuntamento di domenica 25 luglio 2010 di Dudley Brown Boy. Yeah, of course, Brown Boy. E attenzione, che ci sarà un ospite, e sarà questo magnifico ospite, un trio d'archi. E si chiamerà non ci vedo perché c'è il riflesso della luce, no? Sì, aspetta, che te lo sposto un attimo. Sì, grazie. Scusatemi. Comunque, grande frego la regia. Ecco, grande. Che prendo il. Comunque, mi raccomando. Staccato il poster. Mi raccomando, non mancate l'appuntamento domenica 25 luglio a Sesto. Esatto, domenica 25. Sesto a Reghena. Salutiamo tutti i nostri amici. Allora, friulani, vai, ciao. Volevo salutare anche un'amica che non è tanto friulana, ma abita a Pordenone. Si chiama Valentina, che ha compiuto gli anni. Ne ha compiuti 14 di testa. Ciao, tanti auguri, Valentina. Ciao. Anche se ne ha quasi, penso, una trentina. E volevo dedicargli una canzone che ci ha gentilmente richiesto lei, autodedicandosi giustamente la canzone. Quindi, una canzone. Scusa, parte, ma l'hai vista? No. No, beh, prova a dirti, Diego. No, vabbè, cos'è? Una ragazza, ha degli occhi. Dai, non si può fare questa roba qua, dai. Perché no? Ma perché magari sta dentro, dai, ma dai. Non può ascoltare, no, perché stiamo registrando. Appunto, esatto, non ci può dire niente. Allora ti dedico questa canzone, cara Valentina. Ciao Valentina, ti vogliamo bene. Un bacio. Scherzavamo, dai, un bacione grosso. Valentina, tanti auguri. Ciao bellezza. Safari. Ciao begli occhi. Heading out singing our song. Come on, baby, wait and see. Yes, I'm gonna take you surfing with me. Come along, surf, baby, wait and see. Yeah, I'm gonna take you surfing with me. Let's go surfing now. Everybody's learning how. Come on a safari with me. Basta. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. E allora incominciamo. Incominciamo. Che bello il mare. Che bello. C'è una bellissima foto del mare. Beh, descriviamo un attimo com'è il nostro studio. Esatto, tutti quanti hanno mai visto com'è il nostro laboratorio dove noi lavoriamo e sforniamo le nostre idee? Esatto. Volete sapere com'è? Per fortuna, no. Allora descriviamolo, vai Dennis. Allora, io davanti ho un microfono con una cosa gialla sopra, no? Sì. Che è la cosa di gomma piuma gialla, no? È una cosa abbastanza bella, insomma. Ecco, il microfono è appoggiato su una scrivania. Sì. Con le ruote. Sì. Tipo quelle dove si mettono sopra i computer, ecco. C'è questa. A fianco a me, cioè sulla scrivania ci sono alcuni fogli. Accanto a me c'è fogli. Accanto a me c'è Diego, ti spiego. Dietro di me invece c'è l'angolo. Scusate, mi sono girato. Dietro di me c'è l'angolo del muro, no? Poi c'è una piccola vetrinetta con i libri che noi consultiamo per essere maggiormente aggiornati su tutta l'attualità. Infatti ci sono libri del tipo, 57. Tipo gli appuntamenti che diamo. Ma c'è anche una coppa, vedo lì. C'è prova a vedere una coppa. A chi è intitolata quella? Sarà coppa, la coppa dell'amatore. Sarà la coppa del nonno, eh? Serie A RSD Alberto Lent. Wow, un saluto. Un saluto ad Alberto. Sempre in onore a lui. Beh, poi quindi cosa poi cosa abbiamo? Andiamo oltre. Diego, cosa abbiamo sulla sinistra? Dunque, no, innanzitutto io ho due cosi tondi e piatti sulle mie orecchie, non so come si chiamano. Cuffie, Diego, cuffie. si chiamano cuffie. E quello che hai sopra le cuffie è sempre il cappello, con che la porti C, rigorosamente da 365 sì, giorni l'anno. Diego, ecco, cuffie con le C, con la C, che tu hai problemi con la C, con la Q. Esatto. Soquadro, come si scrive, per esempio? Soquadro, S O C Q doppia Q doppia Q 3C doppia Q U A no Adro con l'apostrofo, giusto? Adro. Grande Diego, con l'accento e l'apostrofo, casa, il circonflesso e il diacritico. Per tutti i ragazzi che stanno incominciando la scuola, non seguite la strada che ha fatto Diego, perché esatto. Diego non sa più che altro niente. Non seguite Diego, perché altrimenti potreste essere vittime delle inalazioni, come dico sempre. Per fortuna ha incontrato me, starmi dietro sempre, esatto, davanti. Per fortuna ha incontrato me nel lungo cammino scolastico nella seconda media. Io l'ho gli tersi la mano e gliela porsi e lui la prese e lui la preppe. Sì. Diciamo per fortuna che ha incontrato te. Esatto. Che è rientrato un po' nella realtà mia. Fortunatamente l'ho portato fino alla quinta superiore. Ti ricordi, Frego, quando ci cacciavano dalla biblioteca? Sono stati degli anni, ma noi siamo sempre stati comunque ragazzi che si davano molto alla cultura, alla letteratura. Gli sputazzi sull'ascensore. No. Davate la cultura nel senso che vi tiravate i libri addosso, insomma. Sì. Ah, ecco. A musi in faccia. Come i musi che ci ascolteremo ora, no? Cosa ne dite? I musi. I Muse. Ascoltiamo i Muse. Volevi parlare, Diego? No, dimmi. No, volevo parlare di che cosa? Che c'è un disco qui, uno dei migliaia dischi che stanno qui, dei vinili. Siamo in onda? Sì. Ah, stavamo parlando un po' per i cacchi nostri, ma giustamente è giusto che uno dei migliaia dei vinili che sono qui dove c'è scritto una cesta. Scusa un attimo, scusa. Cosa sta facendo adesso? Mamma mia, santissima. Cioè, fino a tolto le cuffie per prendere il disco. Prende di il disco, lo butta sul microfono. No, fa il casino. Allora, praticamente. Sentiamo, qui. Dai. Oddio, ma era. Ma è... No, ma qui è tagliato il nome, c'è scritto Gloria Gay. No, ma non riesco a leggere l'esto. No, no, Gloria, no. Gay, no. Gloria Gay. Gloria Gay. Dai, Gloria Gay. Perché devi rovinare sempre le cose? Beh, intanto che Diego sta facendo le sue cose. Appena arrivato un messaggio qui da Facebook. No? Stasera è un tenore da Facebook, il quale dice: da un tuo amico, un certo Alan Dennis, lo sì, conosci? Che... Ciao Alan, ti scrive: ehi Dennis, ho perso il cielo, non ho più il tuo numero del C, chiamami. Bello. Quindi, ma che cos'era chiamami C? Allora, scusa un attimo, adesso posso chiederti una cosa, caro Alan? Allora, tu mi dici, ti saluto intanto, infatti è tanto tempo che ti vorrei chiamare, però allora tu hai perso il cielo, giusto? Sì, no, non lo so, devi chiedermelo. Tu hai perso il cielo, caro Alan, e io ti devo chiamare. Ma se hai perso il cielo, cazzo ti chiamo? Scusa, una cosa abbastanza logica. Questo è anche vero, in cioè, effetti. Matematica. Come matematica. Esatto, comunque, matematica, vabbè, insomma, vabbè. Comunque ringraziamo Alan. Grazie, thank Alan, you very much. Sì, ti chiamerò presto. Sì. Attenzione, no, non si sa se lo chiamo oppure no. Comunque, vabbè. No, ciao, lo chiamo, no, lo chiamo. No, sì, no, vabbè, ma come l'hai detto, Alan, non è che sembrava, no, tanto che lo chiamassi. No, ti chiamo presto, Alan. No, vabbè, sentiamo presto, non ti preoccupare. Vabbè, ringraziamo Alan. Ascolta, ma quel C puntato cos'era? CA.O. Caspito. Ah, era Caspito. Caspiterino. Caspito. Ma che cazzo state dicendo? Ma che ne so io, dai. Beh, comunque, dai. Allora adesso fra un po' faremo una piccola pausa e mentre ritenteremo di aggiustare il poster. Ah, beh, sì, povero poster, povero. Durante la pausa. E Diego, tu cosa hai da dire? Niente, cosa devo dire? Cosa devi dire? Meglio così, ascolta, dai. La musica, parla bene così, dai. Come non ti vuoi dire? No, no, andiamo a fare una cicchetta, dai. Dai, via. Ok, dietro la cicchetta, adesso giro e via. Ragazzi, intanto ci ascoltiamo un po' di Airplanes. Yeah. And I wish well now. No, yeah. Capito? A fra poco, gente. Ciao, see you soon. Ciao, ciao. I can really use a wish right now. Wish right now. Wish right now. Let's pretend like it's 98. Like I'm eating lunch off a styrofoam tray. Yeah. Trying to be the next rapper coming out the A. Hoping for a record deal to ignore my pain. Yeah. Now let's pretend like I'm on the stage. Yeah. And when my beat drops, everybody goes insane. Ooh. Okay. And everybody know my name. And everywhere I go, people wanna hear me sing. Oh yeah. And I just dropped my new album. On the first week, I did 500,000. Gold in the spring and diamond in the fall. And then a world tour just to it all off. And let's pretend like they call me the greatest. Yeah. Selling out arenas with big ass stages. Yeah. And everybody love me and no one ever hated. Just try to use imagination. Can you pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now. Wish right now. Wish right now. Right now. Okay, let's pretend like this never happened. Like I never had dreams of being a rapper. Like I didn't write raps up in all of my classes. Like I never used to run away into the blackness. Now let's pretend like it was all good. Like I didn't live staring in a notebook. Like I did the things that I probably knew I should. But I ain't have neighbors, that's why they call it hood. Yeah, now let's pretend like I ain't got a name. Before they ever call me B.O.B. or A.K.A. Bobby Ray. I'm talking back before the mixtapes, before the videos and the deals and the fame, before they ever once compared me to Andre, before I ever got on my space, before they ever noticed my face. So let's just pretend and make wishes out of airplanes. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. And it seems like yesterday, it was just a dream. But those days are gone, they're just memories. And it seems like yesterday, it was just a dream. But those days are gone. Let's pretend Marshall Mathers never picked up a pen. Let's pretend things would have been no different. Pretend he procrastinated, had no motivation. Pretend he just made excuses that were so paper thin they could blow away with the wind. Marshall, you're never gonna make it. Makes no sense to play the game, there ain't no way that you win. Pretend he just stayed outside all day and played with his friends. Pretend he even had a friend to say was his friend. And it wasn't time to move and schools weren't changing again. He wasn't socially awkward and just strange as a kid. He had a father and his mother wasn't crazy as shit. And he never dreamed he could rip stadiums and just lazy as shit. Fuck a talent show in the gymnasium, bitch. You want him out the shit, quit daydreaming, kid. You need to get your cranium checked. You're thinking like an alien, it just ain't realistic.